Info. Hello. Quindi sta sentendo gli asparagi, proprio la pasta domani. Sì, sì. No. Ma c'era uno, stavo dando mio... non so, per tiro al chilo. Cazzo, Marina, Mario, ti diamo un po' di asparagi, non ne fa lui. Ma, una volta che li pulisci non esce niente. Che stai dicendo lui? È un tipo su Facebook. A 20 euro al chilo li sta dando. Cosa? A 20 euro al chilo li sta dando. E già l'ho letto. Caro, no. Luca, ma io non te li voglio vendere. Io faccio un baratto regolare. Tu ci dai un giro di frittelle, noi ci diamo un po' di asparagi, ti fai un po' di pasto di riso, tu e tua moglie. Baratto. Ma le frittelle le ho fatte ieri. Questa che sto facendo oggi è giusto una focaccina così per fare merenda. Cazzo. No, comunque le devo rifare perché mi è rimasto degli ingredienti, capito? E le devo rifare in settimana. Sto mangiando se ce le hai. No, ne sono rimaste, ma sono fredde. Cioè, non sono più buone adesso. Ne sono rimaste due o tre giri. Vabbè, pazienza, la frutta. Queste vogliono fatte mangiate, lo sai. Il giorno dopo non è che siano buone come appena fatte. E lu! Che vero? E io a te e io! Ma che cosa tutti morti sono? Poi vedi, dice che non entri mai! Adesso facciamo fare un'altra lievitazione. La focaccia. Io e il dottore abbiamo fatto una bella passeggiata. Bella, bella lunga. Dalle due siamo diventati quasi 10. Ma sempre lì a Canica? Sì, al boschetto. Ce ne facciamo un po' in forno, assaggiato così, aglio e olio, e domani la pasta. È vero. E Lu? Già, tocca la ricetta a Luca, come farle, perlomeno come le faccio io. È vero. E è vero, è vero. E l'anice è messo là? Io ci metto mezzo bicchiere d'anice e mezzo di acqua vite, lo intendi, no? Bravo, bravo! E beh, Montanaro! Io le frittelle più buone le ho mangiate qualche anno fa ad agosto a Udine e in mezzo non so cosa ci abbiamo messo, tutti rimasugli di alcol, vino e altre cose. Sarà perché c'era caldo e hanno lievitato benissimo, ma erano le frittelle più buone che abbia mai mangiato. Infatti sono queste cose che le danno i gusti, gli alcolici e... l'arancio, se no solo la farina non sa di niente. Ma il vino, l'anice e la sambuca sì, che ci stanno bene, anche un goccino di filo. Ma il vino brutto, ma bianco è. Bianco rosso, ciao grazie, bianco rosso, brutto, non lo so, si è portata, non è qua. Ehi, da son buone. No, io domenica le fa mia figlia. Allora mi ha mangiato due pasticcini, uno col kiwi e l'altro con la banana, con la crema. Buone e buone, frutti, dotti, mintati. Luca Flippa, buone erano quelle... quelle frittelle che mi hai mandato. Ottime per me. Sono uguali a quelle che fa mia moglie. Però fa anche le frittelline, che sono buone lo stesso. E ognuno le fa a maniera sua, grazie a loro. Buoni sciani che ti fa via la buona anima di mezzuzzara. In un camminetto con la cacciatura manna lui che c'è in poco buono a inverno mia mamma in un camminetto con la tribita fino a lo fragili La cazzatura piena tutto, le pellicole in mondo, poi mi magnata. Aspetta che vado a controllare la focaccia, aspetta. Ehi, e beh Luca, non ci sei andato in campagna? Sì, sono andato, mi sto tagliando gli asparagi per fare un po' di pasta, non lo mangio. Pasta ne hai? Tu e mio cognato era in campagna oggi. Dopo pranzo andava a farne, se ne trovava, e gli la danza. A casa. Sì, è tanto giusto per noi, grazie. Allora, è andato un po' alla mamma Marina, gli sta facendo un piatto di pasta. È un piatto di pasta per noi. Poi se domani, martedì, tempo permettendo, vado a farli, dai. Lì, zona 1. Ehi, se fa bella giornata, ma lo so, il tempo. Mi sa che domani a punto e va, E Gian Maria, sentito sì? No, negativo. Ehi, sarà falsa all'aria. Chissà se ci dice di mangiare dolci, il bambino. Magari avete mangiato il dolcetto. Oggi abbiamo arrostito, nel terrazzo, Luca. Bistecche con l'osso, fettine di cavallo. Poi il funghi, la tunna, al prosciutto, peperoncino, il pane abbrustolito con l'olio d'oliva. Oh yeah! Ti freggi la canna. Ehi, già per bagno in office, va, il piede vicino, spendiamo l'incendio, va. Buonasera, Graziano, buonasera Luca. Avanti, Graziano. Eia, tu stanotte sei a digiuno così. Sì, Graziano, la stanotte a digiuno. E una minestrina leggera. E ti raghettaggio. Come dobbiamo fare una carrone, Luca, stare leggera? Oh, si mangia, mangia bene. Devi mangiare leggero, anzi non devi mangiare a digiuno per domani, così è. Domani nulla, solo la colazione leggera. Mi raccomando, leggero, vero Luca? Sì, Ignazio Bacchi, buonasera. Mi dai, un attimino che mi piace questi asparagi. Sì, ciao, ora siamo buonasera anche a te. Vabbè, ma lo faccio così per chiamarti. Io sono una persona, io Graziano lo conosco da tanti anni, ma vero Graziano? A te non ti conosco, ma comunque, come fanno gli altri? Avanti signor Bacchisio, tu dici anche Sole. Siamo conosciuti insieme a Giulio. Vicino a casa sua. Sì, boh, proprio di fronte a casa sua. E siamo Giulio, eravamo un giorno. Tu eri vestito con un permesso militare, un pro militare c'era un permesso. Sì, ma non mi fa. Non 20 anni fa, ma almeno 10 anni, dai. Positivo, poi non me ne ricordo. Questo manco di fronte. Ho conosciuto la buona anima del vicino di Gio Maria. Tutti, da, praticamente anche a cose, cammino passo. No, mi ricordo, non sono sicuro di conoscerti. Di incontrarti nel mio concetto di Luca. Avanti, signor Graziano. Ma quale squadro c'è? No, ce l'ha mangiato la balena ed è dentro la pancia della balena. C'è anche Luca Frippe, vediamo se è rientrato. Luca Frippe il gufo, avanti. Ma deve essere separato in mezzo alla boccaccia. No, oh, qua non lo si è sentito per niente. Secondo me è rimasto lì sulla Torre Eiffel a fare da parafulmine, ma... Nella ruota panorama che è rimasto su in cima, non lo farà. C'è troppo la ruota panorama che è rimasto in cima. E allora, ci vuol rimanere lì, per mantello. Magari a Cuscenna vanno. Tore a Cissé, Tore! Tore l'occhio, stiamo facendo ascoltando se ne diciamo male. E io ci ho messo i colori delle mani di me. Io il squalo, cioè, ho la balena, ce l'ho mangiata. Non risponde, ci sarà travestito a fare il balletto del cancan. Anche, io mi sono messo alle dubbie. Adesso preventore se ne faccio lo studio. Prova! Luca, beh, cosa stai facendo? Fatti lei che si spara. Così giù. Grazie, sto tagliando, dai, mi viene male a rispondere. Ma che ascolto, dai. Ehi, taglia, taglia, già siamo qua. Johnny Maria, ci sei? Grazie, non rispondo. A me che non ho invitato a casa della figlia. Può darsi. Dal rientro le mie buone volte, le mie cose uscite, le visite. Ehi, quando finirà quello che starà facendo, già entrerà, se c'è. A meno che non entra, non lo si fa sentire domani. E poi come è venuto, in aereo oppure in acqua? E allora dai, arrivi di giusto tu in aereo, non è come la notte. A meno che noi è nata la punta di una cosa dell'aereo, quindi i giri acrobatici. Non penso che noi siamo proprio l'aereo. Se non si prende, si è incasciato nella poltrona e non si utilizzava più. Allora l'aereo doveva passare a mondo, è stato una puntata. Probabile pure, perché ci aveva paura dell'aereo, no? Non aveva detto così. Allora io me lo posso dire a prezzo, paracaduto lo vedete, paracaduto che danno la testa. Signor Bacchisio. Signor Squalo, buonasera. E caspita, è una ghida che si che non ci sentivamo. Sì, caspita, un giorno lei stavo parlando con di te. Ti ha fatto spiegare il telefono, non accetti il telefono. Ma dove? Se là non faceva. No, qua, sono poco qua, adesso proprio facevo un scusatore, adesso è rientrato. Dove siamo, mio tutore? Ciao, Tore, ben arrivato, e noi fammi segni male di te. Ti insegni che eri nata la Torre Eiffel per il barabulle, o se no sulla ruota panoramica, e ti sono venuto di sparare. Di la verità. Ma grazie, sulla Torre Eiffel non ha giù manco visto che non venne chissà. Ma da dove sei andato giù alla Torre Eiffel, che è vicino, non è distante. E mia bella che non ero in Francia io, che ero in Inghilterra, bello bene. Ma dall'Inghilterra alla Francia non è lontano, è vicino, perché quella, tutto quel percorso ha fatto mia figlia in macchina e è andata. Meno un paio d'ore d'aereo. Non lo so, erano andati in macchina lì due ragazzi. Hanno fatto tutti i giri, Francia, Inghilterra, tutta quella zona là. Allora, per andare in Francia, dall'Inghilterra alla Francia ci vogliono un giorno, ci vuole. E che tu devo fare di dame figliura? Pensa un po', io l'ho vista dall'alto invece, la Francia, il Monte Bianco non m'attessi, ci sono baciati dagli sabbassi. Ce l'ha detto il pilota ce l'ha accennato, che sotto c'era la Francia, quindi sono bassa di noi. Ehi, è così, si fa così quando va in macchina. Però signor Bacchi, chilometri a piedi, in treno e sulla metro. Sì, tranquillo. È come viaggiare in auto, solo che invece di go devi sollevarti per andare su. Più di una, al ritorno più di una, invece all'andata era tranquillo, tutto tranquillo, al ritorno invece un po' abballato, secondo i posti dove c'era vento, specialmente vicino alla Sardegna. Cata, e poi le orecchie, va già ancora a ci da paddi. Allora, a chi ti deve pulire lì da pili, perché la pressione, anche se sei lì, non è una certa cosa, ti li dà pallarecchi, ti deve pulire i dappini o di un pezzo di custode, quando arrivavi se li levavi non ci avevi nulla. Avevo le cuffie qua, c'avevo le cuffie, ma te si cosa mi ha fatto? No, si volevano i capi, e le orecchie, mi fanno anche lì all'aeroporto, i capi. Un po' di chi, gandarini, mi rubi, e si apre. Sì, gandò Doranda. Quando mi dovrà andare, me ne biglio dai nove, me ne biglio. E poi compri farmacia. Guarda, io ce li ho, e non ho il comodino. Servono sempre. Sì. E allora, signor Bacchi? Aspetta, che da con l'antenna, sacco, che ne caccio tutto in terra, e non ti può. Non ci posso sagrarci un momento. Cos'hai, di là tu hai? Il di là dove sta fisarmi, tutto a terra, io non ho piatto tutto solo. andiamo via. E allora grazie. E cosa vedi? Sto passando quel vicino di Gio Maria. Quello vuole bisognerargli una regolatina, dove? Il vicino sta facendo. Così è, Giulia. Andiamo. Non si è sentito, no? Oh, te lo sto dicendo, sta facendo il biricino. Con chi sa cosa viene al raggio di sole, si è abbronzato tutta la pancia, E era al raggio di sole. Anche da invece era sempre... Ha già avuto la prima di... La seconda di ha cominciato a far feo. E là è sempre tempo brutto. Un giorno non mi ha avuto i buchi di mamma, a me li buchi, non me lo dici. o è piuelli o è freddo o è nevi, sole non ne vede mai. Ma noi, ieri stava piovendo, che non si è combattuto con l'Eba. Ehi, già lo so, già, mia nipote, adesso mi manda anche il video da là, e me lo fa vedere nel telefono, che sta piovendo pure, c'è la neve, se me lo fa vedere già. Una sera per una camminata a piedi in un viale a chi la città da travagliare e dei randelli a pigliarsi lungo metro, cosa è? Ma andavo in Italia, dove abitava prima, e fa abitare. Però prima ci aveva un bel poco di strada a piedi, mi ha fatto vedere un viale lungo, tutto a piedi, vera un freddo, pure più vegli. Che si è appucciato l'ombrello, buco. Chi mi canto dire allo vento, dire a voi. Uiuia. Ne ho fatto dei chilometri. In treno, con la metro. Una metro, 10 minuti, e si è arrivato al posto dove si. A tra poco così veloci. Già lo so, già. Vedi che si cammella. E quando andava a Roma non la prende più a Roma. Io ci vuoi dalla su capo di Roma. In macchina mi vuoi a un'ora, si sta andati a me. Invece con la metra arrivavi subito. Sai, quasi hai chilometri e chilometri con la metro, ma da un luogo all'altro, lontano, un posto lontano di chilometri e chilometri. E meno male hanno invitato Vizio, e se no in macchina lo si abbassa una via e buscati da un capo all'altro. E quelle sono non città come Sassari, no? Là arrivato. Ok, Bacchi. Tutto a posto, sì? Tutto messo a posto? Sì, tutto messo a posto, fino a quando sono riuscito, anche mi sono corrompito, tutto intero ne è parato. Ho tirato. C'hai tutto vicino, c'hai. Sì. Ma chi? Parato, zizi. Mi sto uscendo perché? No, sei uscito un tratto e poi sei sparito. Allora le fa un raio alla radio, le fa in terra, c'è a bicchio, le fa riminuzzi. E te, io devo vedere andiamo. Uiuia, che è te che andiamo a vedere? Mi cazzo un campo a campo, quando vuoi per il paese. Così fai. Io non ho giù i lampassini da lontano, non posso rompere, non siete lampato questo. Andate, uiuia, che è te, mi aggasco. Ah, grazie, cosa vuoi fare che quando la radio si rampa in terra? È rassura, io non ho giù di tutto. E vedi per un fantasma, allora me la metto in questo barbarusso e vedano quelli che gli erredi di Raimondo Pianello e di Sandra Mondaini ha detto che vi sono i fantasmi in casa di Raimondo Pianello, che vi sono di là praticamente, vedono le ombre, sentono la luce che si accende da sola, la poltrona che vedi da bigia e la poltrona come ti per fusare da niente. È un mistero, non ci vicino. Era in campagna, sono passato pochi minuti qua, prima la fine della radio, non devo dire minuti. E via. C'era anche altra gente che vedo, per esempio c'era anche la moglie della buonanima di Gino Bramini. Il marito è sempre guetta, è da dici, che ci parlano, è sempre con lì. E può darsi anche sia vero, io non lo so. Da una parte ci credo, da una parte non ci credo. Ora se dici, Tore, tu cosa ne pensi, Didi? Ah, boh. Non lo saccio. Non saccio nulla. Sì, boh. Andiamo a poco di una nuova. E via. Signor Marino, si è sentito stasera, no? Oh, io l'ho già atteso quei pochi minuti fa, me. Hai sentito Marino? No, ma io non l'ho sentito. Quando ho acceso ho sentito a voi e boh, e sono entrato. Quanto è bello che hanno buono che sono Ciccalino. Ci ha fatto sentire il Ciccalino, avanti signor Ciccalino. Si va con niente già va a entrare. Fa sentire il Ciccalino, però non entra. Ehi, così non sono la sua vita, sarà la sua in due. Manco Graziano più. Graziano andava a cosa, in ufficio. Certo. Di andare in ufficio è duburo. Graziano di a poco devo andare in ufficio a prima firma. E andavi a Luda. Non è maro così. Grazie, è arrivato sei dall'ufficio? Andate arrivato. Appena arrivato, firmato hai nel registro? Firmato e strisciato. Oh, Tore, non ricavo più piedi al comico. Vuol dire che andiamo dove andiamo, da. Grazie. Ehi, e oggi cosa hai mangiato di buono, Tore? Oggi ho fatto una rostita, mia moglie arrossita e io la passavo tutto la corrente. Ehi, Uia. Abbiamo ancora di mangiare, pesa un poco. Ehi, un po' di pasta, una fettina e un po' di insalata, guardando. No, io pasta con il sugo, fuselli. E poi bistecche con l'osso, condita gli apprezzamenti con l'olio d'oliva da stamattina, così hanno fermentato bene. E però io di chissà non ho dimagnato e ci ho messo in mezzo una fettina e mezzo di cavallo, condita lo stesso agli apprezzamenti. Poi funghi a tuna, condita agli apprezzamenti il peperoncino. Ah, il pane l'ho abbrustolito, due focaccine belle con l'olio d'oliva, l'insalata di finocchi e in cantina di magneti grazie, allora si è mangiato tutto tu, hai fatto poco di cosa, allora la banza come ti ho curato, come ti ho curato a cielo. Ah, i quattro la banza. Ah sì, è rimasta una bistecca che non ho cotto, perché se no poi magari la panza va cucinata e si asciutta. Saluti, la va la cucina sulla griglia di ghisa, che ci vuole aroma stessi. E poi mi ha avanzato anche un po' di pasta, i fusilli. E poi già ce n'è a mangiare, là, per caso, per salsiccia, via fine roba. La cana, bibù, pane niente, mi ha mangiato due crackers, niente pane. Sì, bistecche. Ma il cane non deve mangiare, lì c'è la lasciata senza cucinare, ce la cucinavi, la dava così a mangiare rugani. E allora, poi la bici, non sai cosa fa? Gli ho messo nella baschetta la pasta, quasi un piatto ce n'è, appena condita e tutta, e la brugenni, vabbè. E tu era sempre morronienni, rompete le carte, la treccia a sinistra, a noi che la mi mangiene, la messa sempre, e io bugiati lo giugno. Pensa chi non ha visto, chi non l'avevo dato nulla, a ultimo, quando siamo abbassati la frutta, che la mangiava la frutta era ancora lì, quando avevamo mangiato la frutta che la ci falciato tutto, si è mandato i maccaroni, è andato là tutto un ciapo, due minuti non finirà né più. A chi hai sentito roba più buona la gente, hai sentito via con la carne, se i maccaroni te ne mangi due mangi la carne, compreso, non sono macchino gli animali, è intelligente so. Avanti si auto. Già non so niente che ha mangiato, che hanno mangiato. Si nega, no, che hanno per fame. Ma non capisci che no, l'avremmo dato nulla, ma nulla, nulla, manco un pezzaretto di pane, niente, l'avremmo dato. Stai pensando, l'usoio, vasoio, e andato a raccontare un ciappo, 2 minuti girà in cortile, senza respirare. Ah, gli altri rimani allora. E a te lo dici, che non ho altro, si attacca a chissù. A me tutti, prima una di mi faccio così, una rata di prima se cade frutta un poco bassa da me, e comincia giù a dargli caffè cosa, un poco da me moglie, un poco da me figlio, quando vedi che non bucca nulla, allora ultimo anda ci mangia chi ci vila e butto. Sì, deve fare così, deve mangiare solo, e sì, con su si mica, fa come te, si può la mangiare, e cosa pretende, che tu mangiate la figliura, la figliura poi te la mangiate la mamma, e dopo la mamma fa se mangia più presto della figliura, si mangia loro, non si vuole mangiare a carne, però ci pare, che vi ho fatto un riso con la carne, e ci pare, sono la carne, dopo io andavo all'utecambio della figliura a giuntarla, a mangiarsi la carne, un riso lo lascia. L'ho preso, oggi niente, animali, niente, poi mangiare tante gambe giù. Fare una botta di fame, baci, poi ti sappigni. Ma piegni pure, a chi non gli dai il sugo? Perché non gli dai il sugo? Un bel volte mi faccio incazzare. Murugna, cazzo, sì, ma io. Se non vai a via se lo mangia, lì comunque. E giù si comincia a mangiare pane dolce pure qui. Quando fa lo manzano, le pongo un panino e se lo sticcheggia. Prima lo si pigliava la giocava, adesso non so mangiare niente. E poi, quando lo fai aiuta, chi ce lo fa di burugani mio? Prima ci gioca, le burugani. Da qui quando vedi che non rilassi nulla per figliura. Passi la razza e ripeti mangiando il ciclo, se la mantieni con le sue zampe e se lo mangi a mossi. E così fate, se lo si posano e mangiano. Se non fai altro, dice, oh, io che non sei altro, mangiamo zitto, da. E via, e se il dono invece il pane non li mangia, li mangia il tuo pane per lui. Sì, che non ho altro, non ci mangia io. Ma su sì che lo mangia, ma la lupa non li mangia. La lupa non li mangia, e via la famiglia si passa pure la lupa, e quindi si abitueggia da puro, capito? La signora è la lupa, è perché è nata a Roma, è nata questa signora. A Romagna dopo le due vengono in paesi, si preparano ogni momento, e poi un po' di palini due che si rimagna. Le ha fatto. Ma io oggi sono andato a vederli, hanno imbocciato sotto Romascio, hanno musicato la e ci hanno fatto sanguroni. Uia. Gli sei difeso però, che andiamo su. Ah, è andato io a vederli, sì, cazzo, ci sono drumi. No, io dovevo portare il collare antipulci, dovevo portare e più le scatolette della carne. Ho portato e per vederli anche, quindi ci andrò adesso, non questa domenica, la prossima. Sono tranquilli, io sono in casa meglio di essere in casa tua, a chi gioca, girano e corrono e fanno, sono più all'aria aperta. Lui ci scende ogni giorno, ci scende. E lui ci scende ogni giorno vicino al paese allora. E va bene, ma andate a segnare i tuoi che dà, non ti va a lasciare lo stipendio di benzina. Infatti, aspetta, vai, io sono andato in Chivi, sono 52 chilometri, giusti. E andare a tornare sono sempre 110, andare a tornare sono 110 chilometri, e che giù avevo, avanti Graziano. Ma lì già stanno bene, giovani, se state una culissima, magari, beh, si affarrano il buio, ma la buio non serve, fanno più una voce, chi state lì, che vedete che sono sempre vivi, giovani, buio. Mi masci so più malacconvenzia che volito territorio ordente, compreso? Mi masci so più lonfi. Ehi, ma quando vedono che sono tutti i tipi sempre? Prima o poi la si calma, tutti a ricomincio il primo periodo. Da poi, dopo si difendono tutti e due insieme e si vedono a si calma. Sì, cosa che per lui si è fatta davanti, vogliamo si ga... che d'altro masso, vedo un lupo masso. E si la visa brutta. Ma anche per conoscersi fanno così, mi fa piegare un più forte, non hai compreso? Ma poi quando comprende chi chiede più forte, lo vuole abbassare la gola. Sì, infatti. Anche se la fa conoscenza, va. Dice che è un estraneo, da come sta a vedere ogni dì, e ci può giocare un po' le colette con la testa. E penso sia come i cristiani pure quando conosce una persona che è un poco alla larga e poi si avvicina. Infatti, deve stare un po' garietto alla larga da chi si va. Ci visto che da poi hanno fatto torre amicizia. Sì, E se no, se ne arrivi a casa ti puoi saltare un rito, no? Io? No, a casa non li porto più. Mi sa già regalo bianco e basta. La lupa no, distrugge tutto. Chi è minore, la diventa più umana, non distrugge più nulla. Lasciali fare manco un paio d'anni, perché è tranquilla. Sì, se li porterà su mia figlia quando ritorna qua con la macchina, se li porta su. Ah, ce la porta su direttamente, e allora sì. Allora andavè, tranquilla, magari poi la fa allevare e diventa ancora più calmo. Infatti, fanno così, fanno. Devono far così, piano piano, poi verso luglio se li porterà via, o settembre. Ah, sì, allora, ce n'è tempo. Cindesti, avanti, grazie. Ciro Giovanni ancora panettone sta mangiando, mi non si intrisce su pannuzza. E cosa c'ha? Va. Il cortile c'ha, dove? Devono cambiare casa, perché lì non fa rimanerci a tenere i cani. Oh, no, e poi non li vogliono. C'è quella bastarda che l'ha denunciata. Ma che era già una, io era già una. Me l'aveva mangiata. Ah, cambia casa, se ne va dove era prima, adesso ci aveva il cortile. Dove era prima sì, ma insomma ti aveva già mandato a casa, appartamento, e lì non si può tenere. Non voglio tenere i cani. Ebbene, appartamento, i tipi non è come i nonni, no? Che tutti vanno i cani in casa, lì è diverso, le leggi sono diverse, specialmente nei condomini. Infatti, si cercheranno un posto più al coso, dovranno trovarsi un posto più vicino al lavoro anche. Perché anche lì è troppo lontano. Cioè spendere quasi 70 euro di biglietto per viaggiare, l'abbonamento. Quindi. Mia nipote, l'appartamento che c'ha, dove abita lì, è lì quel ragazzo, no? Paga alla settimana in euro, 190 euro a settimana paga. Però l'appartamento è grande, me l'ha fatto vedere nel telefonino, poi anche vicino al lavoro lì. E dunque si è preso quella casa lì. Paga a settimana 190 euro d'affitto. Però già ce la fanno, forse lavorano in due, capito? Allora, la mia figlia paga di pound, che sarebbero 1048 euro. A settimana in pound me l'ha detto. Mi ha detto in euro, mi ha detto che paga la settimana, li paga ogni settimana. 190 euro saranno in pound, però in euro paga sono 190 euro a settimana. Sì, adesso ha sorpassato la stellina l'euro e costa di più. Oh, non me l'ha detto. Però dove adesso considera che due passi, mi esci da casa gioia, fate due passi e arrivi da travaglio. Prima devi abbigliare chi sul treno, o fare il treno e poi a piedi buio. Invece adesso sta meglio, a chi lo mandano decide un quarto d'ora prima, fate un po' di strada che vi vicino ed è arrivata. Allora, 5 euro sono 5 euro e 48 centesimi. In pan? In pan, in pan sono 5. 5 pan sono 5 euro e 48 centesimi. Un bel di dinasso, un bel di soldi. Lì anche se guadagni bene, la cosa è pure cara, è tutto caro. Solo che c'è questo, che guadagni bene, se uno va per lavoro lì e vuole risparmiare non devi i figli, allora già risparmi, però se cominci a andare a guidare a destra, a sinistra non risparmi nulla, campini e bu. Infatti, se no giovedì costava di meno. Non arrivi a mancare 5 euro. Invece da venerdì si è alzato l'euro. Io così. Però grazie a Dio mi riposi tardi. Il lavoro che fa è retribuito abbastanza bene. È un negozio d'abbigliamento, è una catena di negozi americana, e l'hanno presa perché lì sa tutte le lingue, perlomeno quasi tutte le lingue, è laureata in lingue. E infatti adesso qui là la trasferiscono in America. E allora Bacchi? A Bacchi chi è? Come pane fino, pane grosso, pasta asciutta, cosa ne pensi di questo pane? Papini? Il pan sono i soldi che si chiamano là, si chiamano pan. Mi ha chiesto se è carta moneta o metallo. E Bacchi, ce n'ho in carta e ce n'ho in moneta anche. Ce li vuoi? Ah, capito. C'è moneta e carta. Pan. No, non ce l'ho, stavo guardando il libro che le monete in tutto il mondo e quello non c'è, non l'ho vista. Va bene, devo spulciarla piano piano, se vai in fretta non va bene nulla. Con calma l'ho fatta. Senti, Luca. Chi è questa gente mala? Io parla. Che sono in Inghilterra si chiamano pan. No, stelline, le stelline di negruri. La stellina ce le ho, le stelline ce le ho, questo pan mai visto, mai sentito, capito? Curioso di vederlo, perché sul libro non mi risulta, non l'ho trovato. Forse che c'era, non l'ho visto io. Allora, io ho 10 pan, 5 pan, 2 pan, un centesimo. E ce ne sono parecchi. da chi? Penso che sia anche in carta moneta, così è top. Ci sono anche in carta moneta, sono monete in ferro, ma anche in carta moneta. Sono quasi precisi ai nostri, sono come soldi. 10 pa sono quasi come le 10 euro nostre. E 5 lo stesso, si rivede. E sono in plastica, buru. Poi c'ho... ti faccio vedere anche le monete, ti faccio vedere. No, scuso, la stellina, ne ho tre stelline, però non mi ricordo quello, sono piccoline. Quanto è il centesimo? Anzi, la mezza sterlina, mi sembra che sia meno del centesimo nostro. Più piccola ancora. No, quella del coso che ho io nel telefono me le dà in pam, poi più va più alza. La sterlina mi pare che siano 10 sterline e pare non be. Valore, no. Sai che la sterlina si è abbassata, l'euro vale di più adesso. Sino a giovedì costava più la sterlina, da venerdì costa di più l'euro. Grazie, dormito sì. No, sto qua, stavo ascoltando. E come l'euro mi sembra che adesso vale più di un dollaro. Se non sto sbagliando, l'ho fatto vedere al televisore l'altro giorno, le quotazioni della valuta, la borsa. Non lo seguo la borsa. Tole è aggiornato perché era in Inghilterra e dunque sa il cambio com'è stato, quanti euro se li sono costati. Allora guarda, il coso... io ho il coso, che ho guardato ma non ho messo niente, che 5 pound vale 5,48 euro. 5,50 euro. Sì, quasi 5,50 euro, da. Ho capito. Sì. Se ce l'hai in più me la dai una. Capito tu? Sì. È molto leggera e... in più è leggera. In alluminio sono, perché quelle le sedine che io sono in alluminio, non pesano un piffero. Sì, ce n'ho anche di quelle, ce n'ho. C'è qualcuna di quelle lì, sia grande che piccolina. Poi ce n'ho fatta come l'euro, ce n'ho fatte anche di monete. Come l'euro, piccolina. Ne ho tre valori però sono, capito? Tre valori. I biglietti che ho sono in carta, però sono fatti in plastica. Plastica? Sì, in plastica sono fatti. Non l'ho mai visto. Io ho di tutto il mondo, in plastica non neanche uno, neanche dei giapponesi. Tu rivedi, sono nuovi, e non si distrugge niente. Sì, così nuove. Vuole nuova. Sì, domani sera scendo presto dall'ospedale, ti chiamo e così le vediamo. E chi è? Abbiamo capito, sì. Io c'ero, sono rientrato ieri sera, sono rientrato da Londra, quindi c'ero fino a ieri. Ha sempre più valore, però l'euro è salito più della sterlina e mi pare che è salita di pochi spiccioli. Lo sto dicendo io, che sino a giovedì costava di più, da venerdì me ne ha tornato della sterlina. Me l'hanno detto loro che vale più l'euro adesso, ma non di poco, è di poco che vale, però costa più l'euro che la sterlina. Dovrebbero essere 3,89 euro, mi sembra che sia una sterlina. Sì, ma tanto parti con il pan, parti con un pan vale 1,48 euro, anzi 5 pan valgono 5,48 euro valgono. Poi andando con il pan secondo quanto arrivi, arrivi alle sterline. No, c'è una collezione di banconote e di monete. Infatti la trascera le stavo guardando, quelle che da sistemare ancora, se ne saranno un paio di chili da sistemare. Solo che non ce n'è voglia di stare lì con la pinzetta, il fila i cigli, cerca, fai. E allora sono dentro il contenitore fermo così. Quando ho tempo le faccio, quando ho 10 minuti di pazienza. Cosa hai detto? Ehi, contanti, una carta. Ehi, posso pure così? Sì, scambio. Ehi! Ehi, tata, bubu, ehi. Mi ha giunto me ne sono condurato io a rimani in aereo. E ieri sera alle 7:30, alle 7 ero già all'aeroporto. Alle 7:30 ero a casa. Con il passaporto puoi entrare dove vuoi. Devi dichiarare, soltanto che devi dichiarare per cosa sei venuto. Se sei venuto qua in vacanza per una settimana, due settimane. Solo quello devi dichiarare. E infatti, come era prima, ma forse stanno decidendo se rimanere quasi uniti all'Europa o se rimanere fuori dall'Europa. Ecco cosa è, devono decidere. Ancora non si sa nulla. Comunque per gli italiani non cambia nulla, non cambia. È vero. Infatti, come avere il passaporto, conviene avere, andare col passaporto. Sino al 2019, da gennaio 2019, si va con il passaporto. Tutto quest'anno si va con la carta d'identità. Allora, io senza passaporto sono entrato a Sorso. Fai bene. Invece, a te non è vero che c'è passaporto. Luca, che stavo bussando a poco fa. Luca, avanti. Entrano tutti in Europa in Italia. Dai, buonasera, mi sono qua ai fuochi. Come si chiama, al forno. Io a Sorso scendo senza passaporto, invece a Sennori, che è una fucilata, mi chiamo a posto. No, ad Alghero sono. No, tranquillo. E bisogna avere il passaporto, per andare in campagna ci vuole, capito? Per tagliare la Bundibundi ci vuole il passaporto, perché dalla cabina in poi è in zona limite, alto. E devi pagare al casello. Passaporto, grazie, ci vuole, per andare a Santo Zettaro ci vuole il passaporto. Perché se non c'è il passaporto diventa il Zettaro. Ma se paghi al casello fa. E allora? E la moneta chi non fa entrare, chi sta venendo tutti in Italia, che tu sapessi. Due forse avete parlato. Una cosa pulisce tutto, che fa l'Italia apre le braccia a tutti, tutta la mondezza, tutta in Italia. E la Sardegna se prima stava riparando, se va da butta a bricco di braccio, buona io, tra poco siamo neri anche lui. Fabrizio, l'hai visto quel tipo che ha sparato a quelli di colore, il continente? Un nazischindera! L'hai visto, mi ha pigliato la pittura e ha cominciato a far piazza pulita. Solo l'ha ripiccicato subito. Se fate nelle sue cose, io sono fatto bene, ma con hanno accavato un poco di mondezza, hanno accavato. Dovrebbero mandarli intorno al loro paese, no, tenersi in occhi a sbuffare, a coso. Tutta la mondezza è giunta tutta in Italia, ne venendo. Se tra Berlusconi gli si rimanda tutti fuori, aia. Berlusconi, Salvini e la Meloni, si ricudi tutti fuori dall'Italia. perché se tu guardi al latte dolce, al coso, al pima dei frati, ce ne saranno, non dico molto, ma una cinquantina o cento ci sono, tra uomini e donne. Oh, con un telefonino, tutti vestiti bene, salgono sul tram, no, non pagano un piffero, io non l'ho visto mai uno inserire il biglietto di Vinimarro, mai nulla, entra e scende e andano in piazza. L'unica cosa è questi negri annulla, visto che annulla ci sono tutte quelle pietre, aveva tagliato tutta la presa, aveva fatto i zappari, non con la moto zappa, la moto a mano, zappa, e seminare. Se vuoi rimanere in Italia, devi farti trovare, se no piglia avviati. Ti fanno 24 euro di multa e poi se tu non paghi ti denunciano anche, oppure se tu parli male il controllore oltraggio al pubblico ufficiale da recali. E cosa vuoi fare? Tu pensi che la destra sia, la destra di Berlusconi sia buona? Allora non ci ricordiamo cosa ha fatto con Monti, ha fatto entrare a Monti, ha fatto entrare proprio Edo. La mano rubato, manco se mi date 100.000 euro, nulla da va. Adesso proviamo il 5 Stelle a vedere se va. Uno schifo sta diventando, uno schifo, non pagano biglietti qua comunque, non ne pagano, sa come si sedono e butto. E qua, loro, questi qua, ricarica. Un pezzo di pane che non glielo danno, arrivano i chi, telefonino, vestiti bene, soldi e via dicendo, non pagano un piffero, nulla, sono spesati vita e alloggio e anche la moneta in tasca. Qua l'Italia è a rotoli, anzi la Sardegna è più a rotoli di Ghisi. Adesso ho visto in settimana dall'Algeria contro i salvati, lì a cos'era, dove il poligono militare, sono arrivati lì. E cosa hanno fatto? L'hanno presi e hanno imboccato in una parte, gli dati la magnaia, gli dati lì, i vestiti asciutti sono bagnati. Centri in così, no, quelli francesi ti vincono a te e il gozzo quello che hai e ti fanno anche verbale e secondo anche ti mettono dentro come ultimamente con il pescadiccio in acque internazionali, diceva lui, i francesi si hanno preso e ti hanno imbucato. Francesi invece noi entrano loro e noi stiamo a bocca aperta, sentiamo noi da loro e si vigiano. La salisva, e già mangiano una testa, no, no, no, se loro gli hanno 10 euro, ti hanno 5 euro. Ah, no, vabbè, se si muta vagliati, io anzi, se zero pure a te, è vero, se no non da chito. Ma è normale, se tipo un italiano non va per 30, ci vanno loro, Se l'italiano prende 40 e loro ti offrono 30, un altro italiano, non ci vai, e ci va lui, lo straniero. Ehi, un attimino che mi assento, 10 minuti che c'è venuta gente. Un attimino, riprendete, già riprendo fra poco. Capito a Luca, com'è la cosa? Amico anda a 30 euro, non fa anche 30 e rimane di 24, non riesce a far poco stretta. Sì, oia, continuiamo così a non muovere. Io comunque votando avrei votato 5 stelle, ma tanto per approvarla a vedere come ti esce. Do sempre dico sinistra, destra, destra, sinistra, ma se la prendono in quel paese questi qua. Quando comprende che non rivolti più, beh che ciamba in garria, ciamba in sicuro. Guarda che sono successe anche risse brutte lì, tra di loro, oppure con noi sassaresi, è brutto, questo brutto quello, poi loro sono sempre armati, i macette, insomma, non so, io uno schifo comunque diventato. Poi dicono che l'italiano o il sassarese che sia non prende la casa in affitto, perché boh, non so, invece no, però la casa in affitto, mi piace. Oh, sono i gusti che io mi ricordo da piccolo ci andavo a comprare, ma adesso non ci sono manco più andare lì, perché secondo me come passi, che magari fai qualche, boh, non so, riguardi male, ti viene più anche in alto. Pari parte di dico, Fabri, bisogna farlo, è diverso. Parlare è facile, bisogna agire. No, che bisogna, quando andiamo a buttare come ti ci devi. Tanto sono tutti uguali, hanno messo la legge fatta per loro, non per noi a votare. Votate Baedi. E questa cosa bisogna lampannire, hai compreso? Allora, il voto va a loro per mangiare loro, capito? Perché lo cercano. Ma tanto non cambia niente, sempre così rimane. Rimane sempre così, perché loro da queste persone ci guadagnano, ci mangiano un bel di soldi, invece da noi non ci mangiano niente, capito? Da noi ci perdono. Infatti, tanto che stiamo provando di provare il 5 Stelle e vedere cosa esce fuori. Berlusconi è una potenza, guarda che farà qualcosa. Ma non credete nelle parole che dice Berlusconi, tutto dice e poi tutto quello che fa se lo fa sempre per lui. No, per l'altri, ne hai compreso che non è un buffone, Gesù. Quando ha fatto una cosa l'ha fatta sempre in Baedo, no, per l'altri. Basta portare a Sabini, che è dello stesso partito, e dunque cadinati in circuito. Sabini non li può vedere. Ciao Fabri, alla prossima, vai tu. Capito, capito, non li può vedere, ma alcuno li può vedere. È sempre della magna doggia, hai compreso? Che si votano i baedi, basi al potere, non ti immagini non da Roma stessi. Sono tutti bravi che dicono così e boh. Io baghi sono ribosso vedere i taglienti. Allora tanto che siamo provini. Si prova al 5 Stelle e boh. Sì, ma allora capisco che forse il 5 Stelle che state lì. Si incarni che state. Ma la va, A me sarà prima a mettere a posto lo Stato, anche se gani magnatori 20.000, 30.000 euro al mese, aiu, e pensione che si andrà in pensione con 90.000 euro al mese. Su quello sì, però su altre cose cosa fanno? Gli emigranti non hanno mai varitato. Quindi si rivolge a rimandarsi da casa giusta. Quella è una cosa che si può fare anche dopo, però bisogna punire a posto Cosa dello Stato bisogna mettere a posto? Cavazze tutti i che vuole mangiare a un bene di là. Sono sempre ieri che vuole mangiare, non è compreso. Prova a fare una cosa del genere, a buttare fuori questa gente che prendono un sacco di soldi e tornare come... tu canto e vivere come vivono loro, dobbiamo vivere noi anche. Ma, buongiorno, va bene. Buttetta 5 stelle, 35 stelle, fatemi la qualsiasi cosa che fatemi a fare. C'è poco matti. Tra di loro ne hanno non so quanto che ne hanno buttato pure, anche la mia pagina vasca, pure. Tutti i candidati della noi, e allora, figura della mia pagina va e non può entrare, non va dalla sinistra. Grazie, se noi votiamo sempre o la sinistra o la destra, non andremo mai avanti e saranno sempre loro a comandarci, è compreso, saranno sempre loro a prendere un sacco di soldi, quindi la magna d'oggi deve venire per i taglienti. Io se ho da cambiare cambio con il 5 stelle, si manda bene, voi non lo gioco, all'altri, boh, io so solo che pare i taglienti e comincia a ciambare. Io sono solo che bisogna provare a cambiare, se la gente prova a cambiare vedrà che lo capiscono anche loro che hanno perso il luogo di magna. Secondo me quando entra lì si magna nel burrese come anche lì si diceva, c'è poco magna. Tutti che sono passati, sia dei presidenti, sia dei figli, a tutti mangiare, portarella a mangiare, il tacco a mangiare, il grasso, il fuoco, il resto a mangiare, tutti hanno mangiato. Grazie, fai forza, quando sono là sono abituati a mangiare, allora mangiani, ecco, se ne andano da in chibi e mangiani, però... da giubilù, gabbè, inchivi, 5 stelle, pigliani poco, pigliani, non pigliani canti all'altri. All'altri che li provocano, dice, è che devo pigliare così poco, quando chi ti pigliani così un bel. Per quello, vuole andare a mangiare doggia, vuole andare, ecco cosa. Però, le 5 stelle, giubilù, che sono ciambelli, e ciambano un bel di cosa. Non lo so, ma... io di Maio era a Nuvaro, il nato era di male era a Caglia, oggi era a Nuvaro, allora non so più male ci viene più a Sassari. Ma io dico una cosa, tutti questi soldi cosa se ne fanno? Ehi, loro la bella vita ce l'hanno. Nella di loro, cosa vuol dire cosa se ne fanno? In estate se ne vanno al mare con la villa e piscina. In inverno se ne vanno a cucina, a sciare, a mangiare appena la faccia già pure di una luce. Certo cosa se ne fa? Ma stiamo già scherzando, ci sistemano tutta la parentela, tutta la razza. Ecco, ho capito. Ma sono sempre troppi questi soldi, sono tantissimi. Quando cominciano a rifugiati, chi c'ha l'aereo privato, alle Hawaii, alle Bermuda, avessi stessi nell'Italia, dunque devi lì, e avessi sempre l'entrata per la grossa pista. O no, Tore? Infatti, ma che ci devi vedere i piedi e non l'altri? A Ganamagnaro, o so qui, se invece c'è da dare a tutta la popolazione, invece che pigliare 1.000, 1.200, 1.300, 3.000 euro, come ti pigliano ieri, deve essere uguale per tutti, e vedi che mangiano tutti i canti, si mangiano i nomi. Capito, Luca, e ci arrivava le 10 miliardi, questa aiuti usi invece gli altri, un ciccio, una miseria, una volta ogni amore di pappa. Vedate, non ha posto a vista, dato che non c'hanno né lavori né aiuti al colore. Poi gli dai mille euro a famiglia, quelle disagiate che non hanno nulla, a magna, avanza. Mille euro a tutte quelle famiglie, anche 1.500. E pure che campano, no? Beh, abbiamo incampato tutti, invece, non le così. Cantaglienti, c'è gente disperata, tanta gente. Chi dorme nei garage, chi dorme sotto il coso, si chiama. Lì, dove viene bene, ecco, queste, ma Sassarezzi anche lì. Poi parliamo di continentali, nelle stazioni. Aiutiamo queste persone, bisogna aiutarle, cioè, a tutti. Ma ci pensano solo a Eddie e gli stranieri, ma per carità. Ma tu lo sai che il giusto da me, un garage, insomma, materasse, manto, in terra e la luce, mi sono cuccagni in due o tre. E allora, che ti rimane la pata cuccata nei garage, in terra, non dentro il garage, fuori, nella drone. Perché non vengono aiutati, grazie, ha capito. Non gliene frega niente di queste persone. Ma io quest'anno non vota nessuno, assolutamente. No, questo no, assolutamente, non ci vado, perché tanto non cambia niente. Poi, allora guarda, a me è capitato qualche anno fa una persona che conosco, ma con l'ultimo di salutare, però quando è il periodo delle votazioni che si candidano, allora ti chiedono il voto, ciao come stai, cosa vuoi da bere? No, non voglio niente, tanto voto non li pigli, perché così ho fatto, cos'è? Quando mi vedi non mi salutavi in manco, ma mi saluti, cosa vuoi da bere? Ma va a cagare, va. Perché fanno così? A me lo stesso, tanti anni fa, mi aveva promesso il posto di lavoro e tutto, che aveva l'ufficio Piazza d'Italia, al primo piano, tutto cartelli, insegne, nomi, tutti i redditi, l'ufficio. Beh, da quelle buttagioni sono andato a vivere, e abbiamo concluso qualche cosa, che fa qualche travaglio. Pensare l'ufficio non verrà più, inesistente, appena da vivere. Sì, vabbè, le penso non solo per loro, dai, alla fine, vabbè, dai, che adesso me ne vado a casa che ho roba da fare. Prima di tutto devo riparare un televisore che si è staccato, il coso dell'antenna. Lo devo aprire, staccare la scheda e cambiargli il connettore dell'antenna. E sarà un po' di ore di lavoro. Vabbè, a domani, dai, buonanotte. Se Dio vuole, e sono paziente, ciao, ripeti, grazie, ciao. Ehi, ciao Luca, alla prossima. Buon tutto, buon proseguimento in serata. Vai Luca. Ciao Mito Grandelli, vai. Ciao, ciao, tu riprendi, ciao. Sì, ok. Oh, grazie, io mi stavo sentendo che c'ho gente. Ci sentiamo più tardi, se visiti, se no, pazienza. Va bene, dai. Ci sentiamo, grazie. Ok, già, allora ci ha acceso fino alle 8, me lo qui, se trova anche io, se no, a domani, ciao! Beh, grazie! Ehi, dimmi, e cos'è, il rubito qui stava? Ehi, sotto le frische frasche ero, impegnato, mi sa proprio da fare per se ci riuscivo. Riuscito, sì. Bisogna che mi informo. Ehi, come sta da raggio? A fine fra un mese. Ora si è sentato qualche brutta gente. Se vanno via prima già entra dopo. Ah, ehi. No, era indaffarato, eh. Era indaffarato, sicché non lo poteva entrare, capito? Era un aggiunto mancugare, sono così stadori. Beh, era un grido, dopo i cicciacchi, per forza, avanti a provare, così, Pacifico, poi non lo so se era brutta gente, anche la Pacifico, e lui c'era stata a casa mia, gli diceva tutta una fissi, poi c'era anche Fabrizio, che dopo è Fabrizio. Ehi! No, non mi ho perso niente, mi, Graziano. stavo a perso niente. Quando è possibile si chiacchiera, quando ho pazienza, già. Non è che possa stare sempre attaccato qua, no? Ebbene, è giusto. Torre va ancora alla Recci Cucurati, per viaggio in aereo, è ancora a giorno. Ma di giro già è passato da sopra Parigi già, ma chi solito va di subalcorso, passa sopra Parigi, passa, per da Londra, capito? Dito di là se la vista a Doris. A Parigi, a da Londra. Allora già la vista, là. La macchina ha visto a Parigi pure, da lontano però. Dai là, sulla vista. La vista l'andata è alla durata. E arrivi giù subito, dice alla durata, l'aereo. E arrivi dalle sette invece da casa Giulia. Se mi ci mette 2 ore, mi. Ma che, 1 ora e mezza, 2 ore ci metti? Tra arrivi all'aeroporto, devo salire nell'aereo, arrivi a Nokia, ti trae tutto, non ti tradisco già tutto, non c'è problema, lì all'aeroporto a imbarcare, a starti l'aereo e a tirarti, no gli arrivi dentro, ma così ne ha pigiato. E poi all'andata ha viaggiato benissimo, alla tornata ha pigliato un po' di cucciolati, grande la cosa arrivi in Sardegna. Mi pare più buono di più ai settenti il bagaglio che da Londra ai Sardegna. Da me pure mi manco di una pizza. Ha detto di fare bugiardo in macchina, però fatti veloce, il tempo ci vuole di più tra atterrare, il bagaglio, eccetera, eccetera. Lui si conosce. Se sta, quando arriva il bagaglio, se che voi ci sta aperta più di mezz'ora, un'ora che presenta di che arriverà il bagaglio d'oio. Infatti, ciao socia. Comunque. Ha detto che era sempre più bene, che già la prima di che arrivi tu, no, però lì domani sempre Eva. E a chi non ve l'ha detto, non mi puoi dire, non ve l'ha detto, lei va a farla i roghi perché va da chi dà. Decidi di abitare un po', in poco, a chi dà, e non va pensato. Se è un po' smemorato allora. E poi io gli ho imparato a buttare i cani, a cattarli, e gli ha tanti di me. Le caramelle, i cioccolati li avrei addassati. Mi sa che devi imparare, pure domani devi imparare le cazzurette, non so più cosa. Così che il bocciatino lo mangia pure, gli dà ragione. Ma ragazzo ha detto mi sa, verso settembre mi pare, che si riposa la figliola, tanto bene, che si ritorna a sa, però cambia casa, da dove adesso si cerca l'altra casa, là con il tuo figlio, e se li porta là. Cazzo, ma che domani ti verrebbe sa all'arrivare, cazzo, ormai sono i roghi, passano i roghi, e pensa a voi, cazzo, a travagliare, cazzo, e a buccare di là, e a sa bene, l'arrivare, bisogna passare un dipone sa, cazzo, non deve stare qui c'è pensamenti, cazzo, tutta le manna sole, cazzo, aiù. Vuol dire una pensionata lì, di paraetta. Vuol dire che si sono attaccati e si tributano in tutti i luoghi. Questo è vero. Mi sono andato a travagliare, riuscì a buccarsi a ricordo, ma poi domani poi c'è più bene, ma l'animale, che fai tu a buccarsi male? Non andare, Adesso se tu sei noi in casa gioia fai visite malabbiati, ma tu sei addetto a una nazione strana, diversa, e le leggi sono diverse, e certo, boh, non lo so come te la pazienza, capito? A me, purtroppo tutti non siamo politici, lei che mi sta contenta di stare solo in lupo e stati di me, e magari quando vuoi andare a stare, se ti dici di si può imparare. Già lei non si sta precisa. Vabbè, precisarò, ognuno c'ha il coso suo. Ma io mi sono altre leggi diversi e le leggi non so come te io che no. E lì c'è la legge, la devo rispettare, io che non devo rispettare, non applica le leggi, capito? Ma che da la legge è severa per cui ci tengono, e deve essere tassatamente, capito? Mi dà per esempio un tiravia e il condominio e cani il condominio lo per i divinati. E vedi, e invece la ne basta su di scusa. Noi come c'è l'Italia, no? Dietro di ogni palazzo, per un marito. E pesa da, e pesa torrà, e chi deve via, chi si dà, si traglia le bocce a pace, e la rifaccio più bene, che domani ne la risividi. Purtroppo, a pensare così, io non l'avevo qua. Sta bene che sta di me un so, l'aveva pigliato Romagna, mi ha tanto, quando ero visto era andato a cattarli, però a buttare l'Italia, anche sta per tutto per loro, se rimane tutta la mia ragione, se si travaglia, non lo so, si spiegare che anche una quanta fuggi sono in cortile. Un attimo ora si... grazie va attacco che devo fare cosa, dai, ci sentiamo domani, dai, ok, buonanotte, ci sentiamo domani. Ciao, a domani. Ah, mi sente? Guarda, 1, 2, 3 prova. Ehi, il microfonino sto usando, lo devo solo stringere e tu 10 centimetri da così vicino proprio da vicino alla bocca così e devo stringere la vite di sopra, no, perché non ha agganciato evidentemente. Aspetta che stringo la vite, io ci sono, aspetta. Allora deve essere qualche altro. Tua sorella c'è, ero io, segnale basso. Basso che ti vecchia. No, no, sono impegnato oggi, stiamo facendo lavori. Perché ti sembra strano che non riesca a farmi l'impianto centralizzato dell'antenna? Poi sto finendo il secondo bagno, tutta la parte idraulica me la sto facendo io con il mio cognato. E poi per pavimentare e placcare vengono i muratori. Eia, andrà bene Meda. Eia, già sono qui. No. Ti entri? No, no, no, non devo parlare di niente, sono stato a salutarvi, boh. Sono stanco morto, vado a vedermi la TV. E boh, dai, ciao, ciao, ciao, ci sentiamo. Ciao, ciao, tutti e due, là. Lo sapete, io qua entro, saluto e basta, non ne faccio questione, no. Non sono abilitato. Ciao, ciao. Ciao. Marco, finito hai di pranzare? Sì, avanti.